prima edizione. L'informazione del mattino. Notizia arrivata da poco dalle Filippine: una forte scossa e terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata nell'arcipelago delle isole Visayas. Secondo i rilievi del Servizio Geologico degli Stati Uniti, il sisma ha avuto epicentro a 46,6 km di profondità. Questo è il quadro. Il centro allerta tsunami del Pacifico al momento non ha emesso alcun allarme. Ora una breve pausa per la viabilità. Ci ritroviamo subito dopo per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Sono le 6, 16 minuti e 18 secondi. Vediamo di dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola. Abbiamo sentito poco fa negli aggiornamenti dalla situazione su strade e autostrade. Ebbene, se guardiamo le prime pagine dei quotidiani, non ci distanziamo molto da quei temi. L'apertura del Corriere della Sera è: gelo e caos, richiamo del ministro. Scontro su Roma, il PDL con il sindaco, ancora morti, emergenze in Abruzzo e Romagna. Cancellieri ad Alemanno, basta liti, bene la protezione civile. C'è anche uno sfogo del sindaco, appunto Gianni Alemanno, che parla al primo cittadino, dice, intervistato Ernesto Menicucci: tratti in inganno e poi lasciati soli, dice Alemanno. C'è anche il tema dell'energia, naturalmente, come abbiamo già riferito nel giornale radio, come vi dicevo più avanti sentiremo anche l'intervista all'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni. La paura per l'energia, gas consumi record, l'allerta dell'ENI. L'editoriale di prima pagina è a firma di Ernesto Galli della Loggia, che ritorna sul tema del futuro dei partiti, una maturità da ritrovare. A centro pagina troviamo una foto ben nitida del ceffone mollato da Ibrahimovic ad Aronica, e parliamo di calcio naturalmente, e quindi poi l'espulsione di Ibrahimovic e il pareggio, e il titolo riguarda sia il pareggio di Milan e Juve che la Roma che travolge l'Inter, ma il titolo vero è del commento di Mario Sconcerti, che dice: uno schiaffo cambia il campo, sottolineando evidentemente la dipendenza del Milan da Ibrahimovic. A centro pagina, articolo 18 e parti sociali, una base di trattativa per superare gli ostacoli, le ipotesi su cause veloci e licenziamenti individuali. Il pezzo è a firma di Enrico Marro. Si parla naturalmente anche di Atene, che non trova l'accordo, e oggi si riprova per trovare l'accordo anche con i debitori privati. E poi di taglio basso la vicenda della polemica che riguarda Roberto Bolle, il ballerino, come sapete, se i 140 caratteri non offrono notizie ma sfoghi privati letti da tutti. E il titolo è: l'intimità presunta di Twitter, a firma di Massimo Sideri. Il tweet del quale si parla, scritto e poi cancellato da Roberto Bolle, era: i senza tetto che si accampano e dormono sotto i portici del Teatro San Carlo, gioiello di Napoli, sono un emblema del degrado di questa città. Questo il Corriere della Sera. La Repubblica è molto netta, come forse ci si poteva aspettare. Il titolo è: il governo sconfessa Alemanno, lite sul caos neve a Roma, altri 10 morti per il genere. Riccardi accusa i comuni. C'è il pezzo a commento di Alberto Statera, con sotto la testatina il personaggio: i disastri di Gianni dal Tibet a Fascistopoli. E c'è anche un racconto a firma di Carlo Bonini e Giovanna Vitale, che inizia così: il sindaco di Roma Gianni Alemanno ora è solo. A centropagina, intervista di Riccardo Luna con il ministro, per il ministro per l'istruzione, Francesco Profumo. Internet, scuola e sanità, piano per l'Italia online. Un ruolo fondamentale lo giocherà Francesco Profumo, scrive Luna, tra l'altro, che ha la delega per l'innovazione e ha integrato l'agenda digitale. Posto fisso, dice Profumo, i giovani imparino a creare. C'è anche un titolo dedicato alla Grecia, come era prevedibile. La Grecia in bilico sul debito non c'è intesa. Tra i partiti ancora un rinvio, si avvicina il pericolo di default. E poi un titolo ovviamente sul calcio. Juve e Milan si fermano, Ibra espulso. E poi quello che Gianni Mura, almeno dal titolo, definisce il disastro Inter. Si parla anche di estero. Piccolo spazietto in prima pagina per la Clinton che attacca, che accusa Cina e Russia per il voto ONU sulla Siria. Ne abbiamo parlato ampiamente naturalmente anche nei giorni scorsi. La Stampa ha un titolo in alto che riguarda il freddo ed è: altri 7 giorni al gelo, scatta l'allerta per il gas, consumi record fino a mercoledì, nessun rischio. E anche un titolo dedicato singolarmente alle vicende romane. Alemanno sfida Gabrielli, il sindaco è un passacarte, era meglio Bertolaso, la replica ci ha sottovalutati. Ma il titolo forte di prima pagina, quella che possiamo considerare l'apertura vera e propria, è dedicata invece alla politica, perché vede evidentemente la Stampa degli spiragli. Riforme, parte la trattativa, iniziativa PDL, consultazioni da domani, Berlusconi cerca la sponda del Partito Democratico, i partiti provano a cambiare la legge elettorale. Violante che dice: aperti al dialogo, ma non si pensi a leggi su misura. Intervista, almeno parole anche di Roberto Calderoli in prima pagina della Lega. Silvio attento a piazzale Loreto, l'ira della Lega. Calderoli: il PDL vuole isolarci ma non ci riuscirà. E il commento invece dedicato alla questione delle riforme è di Marcello Sorgi, il Cavaliere riapre i giochi. Parla anche il leader della UIL alla Stampa. Il tema naturalmente è quello, articolo 18 e mercato del lavoro, una legge sul licenziamento per le aziende che vanno in crisi. Angeletti: non tocchiamo l'articolo 18, tutela degli abusi, moratoria di un anno sulla riforma degli ammortizzatori. E da segnalare anche questa bellissima sequenza di foto in prima pagina che mette la Stampa, e sono tutte foto a colori della regina d'Inghilterra Elisabetta con tutti i suoi cappellini e quasi tutti di colori diversi. Sono in tutto 18 foto. La vita da regina cominciò su un albero. Oggi Elisabetta compie 60 anni di regno. Era in Kenya nel giorno nel quale il padre morì. Segnaliamo anche la corrispondenza da Bruxelles di Marco Zatterin. Sciopero dei tir e gelo, gli spagnoli a caccia della nostra fetta di mercato. Il titolo è: rischiamo di perdere la guerra delle acciughe. E questo è il quadro dalla Stampa. C'è anche un titolo dedicato alla campagna elettorale di Obama. Gli Stati Uniti, un patto tra miliardari contro Obama, raccolti in poco tempo oltre 100 milioni di dollari, primarie, Romney trionfa e attacca il presidente. Il Messaggero, apertura, basta liti sull'emergenza neve, è dedicato alle parole del ministro Cancellieri. Serve un piano per Roma, gravissima l'assenza di bus e taxi. C'è un commento di prima pagina che si intitola Quanto costa il caos. Un altro commento su quanto dolore, che dolore quegli alberi feriti, scrive Vincenzo Cerami. E poi 120.000 al buio e ora è allarme e gas. Dedica un titolo forte il Messaggero alla Grecia: niente accordo sul debito della Grecia, default più vicino, a rischio gli aiuti europei e del fondo monetario. Ma anche naturalmente una foto, come era prevedibile, per il quotidiano di Roma, a Daniele De Rossi. Festa con l'Inter e De Rossi firma a vita, e si parla naturalmente della Roma. Infine il PM Schettino torna in carcere per i suoi reati, 2697 anni di pena. Il Sole 24 Ore, scusate, il Sole 24 Ore, il giornale del lunedì, il Sole 24 Ore del lunedì, come sapete, e l'apertura è dedicata al fisco che cambia due volte al giorno nel 2011, oltre 650 interventi tra norme modificate e disposizioni aggiunte. Ci sembra dia una discreta misura di come funziona il paese. Il patto necessario, il titolo del commento di prima pagina, firma di Primo Cepellini e Roberto Lugano: togliamo l'alibi a chi si nasconde dietro le leggi. E poi un titolo dedicato alle nostre industrie che girano: meccanica e rubinetteria ai primi posti, ecco le nostre piccole e medie imprese che sono diventate leader nel mondo. Commento di Marco Fortis in prima: quando i tedeschi ci inseguono. E poi ancora sul fisco, i controlli nel mirino, un'azienda su 3, oddio, non solo sul fisco, dai contributi alla sicurezza, imprese sotto osservazione in 11 ambiti. Questo il quadro anche dal Sole 24 Ore, brevissimamente un paio di titoli dai siti dei quotidiani esteri, naturalmente ampia apertura sul New York Times, al ampio spazio al Super Bowl, del quale vi abbiamo parlato poco fa e vi riparleremo tra poco. Per quanto riguarda il Financial Times, racconta delle banche europee che devono fronteggiare nuove sfide per quanto riguarda il capitale. L'EBA, l'autorità bancaria europea, sta per chiedere piani sul rafforzamento patrimoniale. Da segnalare che il Wall Street Journal dedica un titolo a quel che sta succedendo non solamente in Italia ma in Europa, perché i problemi per il freddo ci sono dappertutto e dice migliaia di persone tagliate fuori. E giusto per darvi un quadro e per dirvi non siamo soli, il titolo del Telegraph è questo: giusto 3 pollici di neve, che corrispondono più o meno a 7 centimetri e mezzo, giusto 3 pollici di neve fermano metà dei voli di Heathrow. Prima edizione. 6:33 minuti e 44 secondi, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. La mattinata in diretta di Radio 24, vi parla Daniele Biacchessi, oggi è il 6 febbraio. Non dimenticare, non odiare. 35 anni dopo l'omicidio di suo padre Vittorio Occorsio, PM di Roma, che indagò su Piazza Fontana, la P2, i vari golpe, il figlio Eugenio scrive oggi un libro che è una lunga lettera a suo figlio e che ha lo stesso nome del nonno. Tutto iniziò, come racconta a Raffaella Calandra, dopo un commento pronunciato lo scorso aprile davanti alla notizia dell'uscita dal carcere per ragioni di salute di Pier Giorgio Concutelli, il leader di Ordine Nuovo, killer del padre. Io l'ho letto sulle agenzie di stampa, figurati, che mio figlio aveva commentato che questo individuo, anziché essere scarcerato, deve essere applicato sulla pena di morte. E io ho avuto una reazione, insomma, sono trasecolato, come puoi immaginare, una reazione di forte fastidio, perché poi tra l'altro mai si era parlato nella nostra famiglia di questa punizione estrema. Mi ha fatto anche riflettere, perché se un ragazzo di quell'età, che è nato dopo la fine degli anni di piombo, ha questo tipo di reazioni, è una cosa che fa riflettere, ma dopo il suo pentimento, le lacrime, eccetera, cioè gli abbracci e quant'altro, insomma, ho detto quasi quasi faccio una cosa, gli faccio una lunga lettera, che poi è fuori molto lunga, per spiegare di cosa stiamo parlando, cosa è stato il terrorismo per questo paese, cosa è stata questa catena incredibile, infinita di morti ammazzati, come siamo riusciti ad uscirne, e tutto questo appunto perché non si dimentichi, appunto, però anche non si odi, perché odiare è una reazione eccessiva, sbagliata, fuori, è una reazione, diciamo, che sta al di fuori dello Stato, di cui tuo padre era stato un servitore ai più alti livelli da magistrato. Quanto è difficile, in chi sente in sé questa duplice veste del dolore personale, quindi familiare, quindi che casomai provoca l'inevitabile sdegno, riuscire a contenerlo all'interno della dimensione razionale e quindi quella dello Stato con le sue leggi. Noi siamo diversi dai terroristi, siamo altre persone, non abbiamo questa ideologia violenta, non ci ammantiamo di questo ruolo da giustizieri, e quindi dobbiamo ragionare in termini, diciamo, come dire, sobri e lucidi, come cittadini di una civitas, di una comunità democratica e civile. E quindi quando la giustizia ha applicato le leggi, quando un assassino è stato giustamente allontanato dalla società, poi nel nostro caso per più di 30 anni, insomma, una pena spaventosa, se la società non prova a recuperare anche il peggiore individuo, ecco, allora tanto varrebbe applicare la pena di morte. Invece è proprio di uno Stato democratico e civile provare a recuperare, a rieducare le persone. E quindi, ecco, alla luce di tutti questi ragionamenti ho cercato di ricostruire le vicende che hanno portato ad alloggio, con un punto in mente: in questa guerra assurda che i terroristi hanno mosso contro lo Stato, alla fine hanno perso loro, ha vinto lo Stato, ha vinto la civiltà delle persone per bene. In questo senso possiamo dire che l'uccisione anche di mio padre non è stata una morte inutile, è stata una morte utile, nella misura in cui i martiri purtroppo servono a garantire la vittoria della parte giusta. Era Italia in Controluce, la prima edizione, torniamo oggi Teice 30 Radio 24. Le 6, 37 minuti e 40 secondi, iniziamo rapidamente a approfondire la questione del maltempo, poi torneremo con tutta la cronaca naturalmente nel giornale radio. Come sapete ci sono state vittime, ci sono molti paesi isolati e allora uno di questi, che poi non è un paese perché Ferentino è un comune di, se non sbaglio, 20.000 abitanti circa, è uno, appunto, uno dei paesi isolati. Io saluto Piergianni Fiorletta, che è sindaco di Ferentino. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. 20.000, sbaglio? Sì, sono oltre 20.000. Ma E tutti senza elettricità al momento, sindaco? Qualcosa è tornato? Ieri sera sono stato ricevuto telefonicamente dall'unità di crisi. Ci sono ancora 2.000 utenze telefoniche non riattivate, ci sono alcune frazioni completamente isolate con un forte stato di disagio, insomma, per cui non è una situazione facile. Da quanto state andando avanti? Praticamente da venerdì, cioè voi a venerdì è iniziato a saltare tutto quanto, elettricità, telefoni e così via, no? Sì, ci fa una breve cronologia, per favore. Sì, la cronologia è che iniziano a nevicare giovedì notte intorno alle 22 e da venerdì mattina abbiamo queste zone isolate, quindi oggi è il terzo giorno di isolamento totale. Noi abbiamo una viabilità intorno ai 300 km interna, per cui è difficilissimo cercare di ripristinare anche in tempi veloci la normalità. Ci sono le difficoltà da parte non solo dell'Enel, da parte della Doscea per l'acqua. Ieri per fortuna in molte zone è tornata l'acqua. Noi al comune non abbiamo la Telecom, non abbiamo le linee, per cui cerchiamo un po' di difenderci, è una cosa difficile. Poi c'è il panico, molte persone che chiamano in continuazione i nostri telefonini, per cui adesso abbiamo creato dei varchi solamente per eventuali richieste da parte di urgenze sanitarie. Insomma, abbiamo se siete in grado di raggiungere tutte le frazioni adesso, sindaco? No, oppure tutte le frazioni no, cioè abbiamo una a 12 km dalla nostra città, vicino al lago, vicino alla città di Fiuggi, totalmente isolata. Ieri abbiamo chiamato l'unità di crisi e pensiamo che se permane questa situazione di difficoltà le cose diventeranno ancora più difficili, per cui l'intervento dell'esercito, che la nostra protezione civile sono 3 giorni con gli operai, con tutti i mezzi che cerchiamo di difenderci, ma non è una cosa facile. E l'esercito è arrivato? No, non è arrivato nessuno, è che poi noi abbiamo avuto oltre un metro di neve, insomma, ieri per fortuna è stata riaperta la Casilina, perché l'altro ieri la società Autostrade ha chiuso il casello autostradale di Anagni, per cui molti mezzi pesanti sono riversati sulla Casilina, per cui c'è stato un blocco della Casilina e se non sbaglio c'è stato anche qualche vittima. Adesso noi siamo in continuo movimento, ma è difficile difenderci anche nel centro storico, perché la nostra città è una città di 20.000 abitanti, ma ha un'estensione superiore a 70 km quadrati, il doppio di Frosinone, per cui è veramente difficile difenderci. Se poi le previsioni del tempo ritardano ancora neve, allora la situazione penso che diventi drammatica. Non ho capito se giustifica questo mancato supporto, che mi sembra di aver capito che è arrivato, sindaco, oppure no? No, io non giustifico, noi stiamo cercando di difenderci con i nostri mezzi, con le nostre forze, ma non ce la facciamo, perché ieri un operaio mi ha dato ha fatto il passaggio perfetto, mi ha detto: sindaco, sembra che stiamo togliendo l'acqua dal mare, mi ha detto, e ha dato un'idea eccezionale, per cui siccome durante questi giorni ha rinevicato di nuovo, quindi ha imbiancato le strade, adesso abbiamo il pericolo del ghiaccio. Questa mattina, ieri, ci siamo divisi i compiti, però oggi alle 7:30 abbiamo un'altra riunione per intervenire sul territorio, però abbiamo una marea di chiamate e tantissime emergenze. Per cui... ci sono situazioni di particolare preoccupazione, sindaco, a livello per esempio di salute di qualche cittadino che si trova nelle frazioni o cose di questo genere? Sì, ci sono queste situazioni. Poi abbiamo le situazioni dei malati in dialisi che debbono tornare, purtroppo una grande fatica per arrivare a questi punti, insomma. L'altro ieri con due squadre siamo riusciti dopo 5 ore a portare una persona. Poi abbiamo i bambini piccoli, abbiamo le persone che vanno in crisi, gli anziani che chiamano, che chiedono di essere in ospedale, insomma non è una situazione facile. Brevemente, sindaco, che cosa chiedete? Noi chiediamo l'aiuto almeno per ripristinare la viabilità, mezzi grandi, pesanti, perché adesso c'è anche il problema del ghiaccio. Malgrado noi possiamo buttare tutto il sale che vogliamo, ma le nostre 20 persone della protezione, i nostri 10 operai, molti, ecco, adesso la protezione già civile ha riniziato a passare il sale. Però per noi, se le pressioni del tempo non cambiano, i problemi diventano ancora più difficili. Grazie a Piergianni Fiorletta, sindaco di Ferentino, in bocca al lupo naturalmente, buona giornata. E adesso cambiamo argomento e passiamo con il nostro Dario Ceccarelli a dare un'occhiata a questioni di calcio. Dario, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, tra l'altro tutto questo freddo ha condizionato anche il calendario calcistico. Ci sono due o tre cosette da dire sulla giornata di ieri. Sì, ha congelato anche la classifica, nel senso che è rimasto praticamente tutto fermo perché la Juventus ha frenato col Siena, il Milan ha pareggiato col Napoli, il tutto però in una giornata di polemiche, perché la Juventus ha reclamato giustamente per un braccio di Vergassola in aria, quasi sicuramente ci deve essere rigore, però sono volate un po' parole pesanti. La Juventus ha detto: meritiamo più rispetto, ci voleva un arbitro più esperto. Giustamente è stato anche risposto che anche gli altri meritano rispetto con arbitri adeguati, e quindi c'è questa polemica, e non meno forte la polemica che coinvolge Ibrahimovic, che ha dato uno schiaffo manata ad Aronica, il giocatore del Napoli, perché stava discutendo il difensore napoletano con Nocerino, e è intervenuto dal di dietro a Ibrahimovic, gli ha allungato una manata che è stata vista poi prima dal portiere del Napoli, poi dal guardialine eccetera, l'arbitro non aveva visto, e qui c'è la discussione, perché se è un comportamento violento rischia 3 giornate, se è antisportivo solo 2. È comunque una bella ipoteca sullo scudetto. Ci si domanda come mai Ibrahimovic perda così tanto la testa facilmente. È recidivo, l'anno scorso gli capitò di dare un pugno nella pancia a un difensore del Bari, e tra l'altro in un momento nel suo anno forse migliore, anche se va detto che il Milan è veramente dipendente da lui nel bene e nel male, forse anche quando nel bene, perché a volte tutto il gioco passa da lui, e mi sembra un po' troppo Milan Ibrahimovic dipendente. L'ultima cosa direi è Roma, il poker della Roma sull'Inter, che l'Inter è stata sepolta da una valanga non di neve ma di gol, e tra l'altro per la Roma è una giornata bellissima perché coincide anche con la conferma di De Rossi, che per altri 5 anni, e quindi, e in più sta venendo fuori il progetto Roma con questi giovani straordinari, Borini che ha fatto 2 gol e poi ne ha già segnati 6 a 20 anni, è un fiume in piena, è un ragazzo che sembra Rooney, ha quella velocità di esecuzione, molto bravo, e quindi per la Roma tutto bene, per l'Inter pare ritornata l'Inter dall'inizio d'anno, e quindi per Ranieri son guai. Prima edizione. Le 6:48 minuti e 30 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque adesso ci trasferiamo negli Stati Uniti per parlare del Super Bowl, il grande appuntamento sportivo americano dell'anno, e lo facciamo con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Allora Mario, com'è andata? Beh, com'è andato? È andato in modo fantastico. Io sono per i Giants, hanno vinto i Giants, era la finale del Super Bowl, Giants contro Patriots, un derby dell'East Coast. I Patriots sono di Boston, del New England, quindi del Massachusetts, New York, Giants ovviamente di New York, New Jersey, e dunque è una partita che ormai è diventato un classico. Ci fu un altro confronto nel 2008, di nuovo vinsero i Giants, è una partita che si è decisa all'ultimo secondo, tra l'altro, perché i Patriots hanno cercato di fare un ultimo attacco quando mancavano 56 secondi alla fine della partita, e ha fatto un passaggio Brady, che è il quarterback, il regista, diciamo, dei Patriots, meraviglioso, lunghissimo, che avrebbe potuto concludersi in modo altrettanto meraviglioso, e se non che il ricevitore lo ha perso per un secondo. Ecco, se lo avesse acchiappato in meta avrebbero vinto loro, e invece hanno vinto i Giants 21-17. Ripeto, è stata una partita abbastanza cardiopalma: prima in vantaggio i Giants, poi in vantaggio i Patriots, una serie di colpi di scena, grandi passaggi, grande partita e grande festa americana. Grazie Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, buona giornata. Grazie a voi. Grazie dunque ancora Mario Platero, e noi vi diamo un paio di notizie prima di andare a chiudere. Vi avevamo detto della scossa di terremoto che c'era stata, che c'è stata nelle Filippine, una scossa di magnitudo 6.8. ci sono ulteriori aggiornamenti, è stata rivista magnitudo 6.7, ma a quanto sembra non ci dovrebbero essere particolari problemi né allarmi tsunami. Altre notizie, una in arrivo dalla Siria, soprattutto come sapete si sta parlando molto della Siria, di Damasco in queste ore, anche dopo il voto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, o meglio il veto di Cina e Russia sulla risoluzione. Un gruppo di disertori siriani ha interamente distrutto un posto di controllo dell'esercito nel villaggio di Al-Bara, nella regione nord-occidentale di Idlib, uccidendo 3 ufficiali e catturando 19 soldati. Questo è quello che rende noto l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani. A quanto sembra gli assaltatori non avrebbero invece subito alcuna perdita. Brutte notizie invece dal Pakistan, dove decine di persone sono rimaste intrappolate nel crollo di una palazzina che ospitava un laboratorio farmaceutico, avvenuto questa mattina a Lahore, nel Pakistan centrale. Ed è veramente tutto per prima edizione. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, Viola Bottoni in redazione. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Una buona giornata. Ci risentiamo tra poco con il GR.